Cari amiche e cari amici, Radio Alma Bruxellando, bentrovati martedì sera, martedì ai microfoni. Saluto Dani M in regia. Buonasera a tutti. La nostra Fiordaliso. Eccomi. Salutiamo il nostro Giorgetto che non è qui con noi, quindi caro George, goditi Strasburgo, insomma, tu che puoi, che sei da quelle parti. Mi raccomando, porta un po' di sole, magari sai com'è. Insomma, ne saremo tutti ben lieti. Questa sera è una puntata abbastanza particolare. Parliamo di un tema di cui in realtà forse non abbiamo mai parlato. Parleremo dell'utilità delle statistiche. Cercheremo di capire che cosa nascondono i numeri e quanto malamente, scusate l'espressione, possano essere utilizzati e nuocere in generale. Quindi l'argomento credo sia anche abbastanza di attualità. È un poliziesco stasera, insomma. Scoprire l'utilità è un giallo. Ma questo lo farei magari dire al nostro ospite, quindi lui magari ci potrà raccontare se è un giallo oppure no, se invece è semplicemente cronaca rosa, prendiamola così. Però prima di entrare nel vivo della trasmissione, io volevo fare due saluti. Due saluti che ovviamente non avrei mai voluto fare, però siccome la nostra è una trasmissione dedicata comunque alla comunità italiana o a quanti desiderano imparare e migliorare l'italiano, e poiché probabilmente eravamo anche in Italia, quindi l'emozione forse è stata ancora più forte, volevo unirmi al cordoglio, al dolore che ha colpito la famiglia Bassi. Penso che quando si arrivi a toccare gli innocenti, i ragazzini che vanno a scuola, probabilmente non c'è più speranza. Allora profetiche sono poi le parole di colui che disse: beato quel paese che non ha bisogno d'eroi. E questo veramente vale la pena ricordarlo. L'evento ovviamente mi ha particolarmente colpito perché per 5 anni io ero tra quelli che alle 7:40 era davanti scuola aspettando che quella benedetta campanella suonasse. Quindi insomma, l'episodio che è accaduto a Brindisi qualche giorno fa mi ha particolarmente toccato e quindi mi sentivo veramente in obbligo di esprimere una parola di cordoglio, e credo che, e spero che questi eventi non possano veramente riprodursi mai più. Il giorno dopo poi abbiamo avuto un'altra notizia, ovviamente di ben altra entità, e lì nulla possiamo, perché quando la terra trema sappiamo che non è sempre dovuto alle attività nefaste dell'uomo, e quindi insomma un saluto anche agli sfollati, alle vittime, agli operai che hanno perso la vita sabato notte, quindi qualche giorno fa. E insomma, Bruxellando vi è vicina e speriamo che l'Italia intera comunque possa trarre ispirazione da questi eventi e possa davvero migliorare, perché è quello di cui veramente abbiamo bisogno. Detto questo, io volevo ricordarvi due eventi, visto che parliamo ancora d'Italia, e poi passiamo al nostro ospite, passiamo a Luca, che è qui con noi, che ci parlerà di statistiche. E pensate, il prossimo 15 giugno, quindi un venerdì 15 giugno, c'è il decimo anniversario del Film Festival di Bruxelles, che invece apre le porte il prossimo 8 giugno, quindi il venerdì precedente. C'è una serata dedicata interamente all'Italia. E questo mi sembra essere abbastanza carino come film, Italy, Love It or Leave It. Questo me lo chiedo anch'io, se bisogna amarlo, se bisogna lasciarlo, seppure per amarlo bisogna effettivamente lasciarlo. Questo insomma potrebbe essere la domanda. E il film sarà proiettato alle ore 19 e invece poi più tardi alle 20:30 vi sarà l'aperitivo italiano, quindi insomma ritorna questa abitudine estremamente ormai popolare, soprattutto qui a Bruxelles, di consacrare un momento a quelle che sono le delizie della nostra gastronomia, e alle 9:30 poi la Criptonite nella borsa, che è presentata dal regista Ivan Cotroneo. Le tariffe sono molto modiche, 7,50 euro per film, invece poi per chi vuole guardare entrambi i due film, quindi partecipare ad entrambe le sedute, 10 euro più l'apero. Quindi insomma mi sembra essere una straordinaria occasione. Quindi ripetiamo, il venerdì 15 giugno nell'occasione del decimo Film Festival di Bruxelles. E volevo anche ricordare un altro episodio, Ah, è una mostra di cui probabilmente abbiamo già parlato, ma poiché procede e procederà fino al prossimo 10 giugno, mi fa piacere riparlarne, perché è una mostra che riguarda Carlotta di Belgio, che ha avuto modo di trascorrere vari anni presso lo stupendo, beata lei, castello di Miramare, nei pressi di Trieste, e questa mostra ricorda proprio il periodo durante il quale la giovane regnante, la giovane principessa, ha trascorso parte della sua vita prima, e quello che fu poi il famoso la famosa sconfitta messicana del 1867. La mostra si potrà ammirare presso il Musée Bellevue a Place des Palais numero 7 a Mille, Bruxelles, aperta tutti i giorni compreso la domenica dalle 10 alle 17 e fino al prossimo 10 giugno. Luca, benvenuto. Buonasera a tutti. Ti ringrazio finalmente di aver accettato il mio invito ad essere qui con noi a Brussellando. È quasi a tempo scaduto, eh? direi che la zona Cesarini l'abbiamo superata. Direi quasi di sì. Luca è un carissimo amico, nonché veramente un ottimo docente di statistica, non perché sia docente, ma perché lui è veramente un esperto di statistica in generale. Io ho una domanda che è anche un po' una curiosità: ma la statistica esiste per davvero o l'abbiamo inventata noi perché un giorno non sapevamo cosa fare? Ecco. Lo sapevo. In che senso l'abbiamo inventata noi o esiste per davvero? Esiste per davvero perché ne abbiamo bisogno, oppure? Allora, possiamo partire con un aforisma. Ok, così. Un aforisma, perché non dico una citazione perché non so l'autore, quindi è un aforisma. È molto facile mentire con la statistica, ma bene, è quasi impossibile dire la verità senza la statistica. Il che rende quasi un po' inconciliabile le due cose. Quindi quindi questo qui è giusto per una puntualizzazione, giusto per come punto di partenza, perché poi dopo uno dice: ma la statistica, allora sei contro? E partiamo, è impossibile dire la verità senza la statistica. Partiamo, questa mi sembra essere quindi un'ottima. Facciamo anche un paragone, un po' come con le parole, no? Sì. Con le parole sappiamo tutti che è molto semplice mentire. Senza parole però è molto difficile esprimere qualsiasi concetto. Quindi la statistica dipende da come viene utilizzata, qual è la finalità che tu ti poni nel momento in cui decidi di raccogliere dei numeri e di macinarli, sostanzialmente, perché poi dopo questo è quello che fa la statistica, e dà delle procedure su come dei numeri devono essere macinati, no? Insomma, questo mi sembra essere abbastanza interessante. Però se io ti faccio una domanda, no, e ti chiedo: ma in realtà il PIL che cos'è? Allora qui parlando di una di quelle definizioni, no, che tutti un po' conoscono, perché da un po' dappertutto tu trovi sempre questa parola: il PIL è aumentato, il PIL è diminuito, il PIL è così, il PIL è di là. Ma sto PIL che cos'è? È un indicatore economico, così me la sfango molto bene. Un indicatore economico molto importante, che è stato creato nel primo dopoguerra per valutare il modo in cui l'economia di un paese stava. Non mi viene la parola in italiano, una cosa com'è in inglese? Sta bene, perché mi viene a dire la performance, che in italiano non la performance, sì, performance accontentiamoci. È terribile, lo so. La performance dell'economia di un paese sostanzialmente è un indicatore che deve essere visto all'interno di un sistema ben più complesso di contabilità nazionale, che solamente alla fine di tutta una serie di procedure e di conti viene fuori questo indicatore. Però diciamo che i numeri e le statistiche che la contabilità nazionale può darti a complemento del PIL è di una ricchezza tale che spesso è inimmaginabile dalle poche righe che uno legge magari sui quotidiani economici o non economici, quando legge semplicemente: il PIL è salito, il PIL è cresciuto, siamo in recessione, il PIL di questo trimestre è negativo, la produzione industriale è crollata, eccetera. dietro tutto questo c'è un sistema molto più ricco che, insomma, adesso da definire in due parole è difficile, però che già di per sé rende conto di una differenziazione dall'interno dell'economia tra persone che vengono chiamate famiglie, delle famiglie da una parte, le imprese, le banche che lì vengono chiamate istituzioni finanziarie nel gergo della contabilità nazionale, il settore pubblico, il governo, e già per ciascuno di questi settori vengono compilati dei conti differenziati e che in qualche modo appunto rendono conto della complessità dell'economia, non è che semplicemente il numeretto, il siamo cresciuti adesso bisogna dire siamo crollati dell'1%, dello 0,1 eccetera. Prima di proseguire, vedo che Dani M mi fa cenni dalla regia, quindi effettivamente avevo dimenticato di dire in apertura di trasmissione che questa sera mettiamo a disposizione 4 biglietti per il concerto di Daniele Silvestri, che avrà luogo il prossimo 27 maggio proprio a Bruxelles. Per quanti intendessero o comunque volessero partecipare, come al solito ci sarà una domanda semplicissima su Daniele, e che non è Daniele, però su Daniele Silvestri, chiamandoci allo 02 345 2656. Ripeto, 02 345 2656. Il nostro statistico di fiducia ci elaborerà il profilo statistico di colui o di colei che telefonerà per primo. Ah, non facciamo una domanda di statistica invece? Ah, volendo. Sì, e che cosa gli chiediamo? Che cos'è la media? È troppo semplice. Vabbè, allora gli chiediamo che cos'è la moda. Magari. Ma più di moda. Giusto per non fare quello, per fare un minimo di selezione, andiamo almeno sulla varianza, dai. No, dai, sulla varianza, va bene. Allora, a tutti gli amici che sono all'ascolto, doveste per caso sapere che cos'è la varianza, chiamateci e vincerete un biglietto di Daniele Silvestri. Ricordiamo che poi in realtà la domanda che faremo è proprio su Daniele Silvestri, che mi sembra che vada messo all'onore. E quindi vedremo. Ah, possiamo provare a chiedere che cos'è la varianza? Va bene, va bene. Così, magari. Però non è penalizzante, ecco, non sarà intesa come una penalità, ma è inteso come una tu, magari, vediamo. Se troviamo questo ascoltatore perfetto all'ascolto. Devi sapere, Luca, che qualche tempo fa ho letto un libro dal titolo Bad Science, e da questo libro sono emerse tante verità illuminanti che in realtà stai lì a dirti: ma com'è possibile che la stampa specialistica possa dire tante frignacce? E scusate l'espressione. Com'è allora che la statistica, poi, come dicevi tu prima, si presta ad essere così flessibile? Diciamo che non si presta ad essere così flessibile. Si presta così a essere così flessibile prima di tutto perché è un argomento di tipo, diciamo così, tecnico. E nel momento in cui uno presenta i risultati, le persone a cui le presenta di solito, nella stragrande maggioranza dei casi, non sono esperti di statistica, quindi sono persone che gli argomenti che vengono fatti dagli esperti hanno una qualche, come dire, difficoltà a comprenderli appieno, non sono argomenti che, diciamo così, masticano tutti i giorni. Adesso non so se il nostro ascoltatore poi risponderà sulla domanda, peraltro piuttosto semplice, su cos'è la varianza, però se nel momento in cui dovesse, non lo so, qualcuno dovesse scegliere un prodotto andando al supermercato, oppure decidere se vaccinare o meno i figli, oppure non lo so, scegliere nel momento in cui sfortunatamente per lui o per lei dovesse ammalarsi, scegliere un farmaco, diciamo così, tradizionale oppure un rimedio omeopatico, è difficile fare questa scelta sulla base di è difficile per chi fa questa scelta farla su base statistiche, non avendo gli strumenti per poi poter fare questa scelta. Quindi nel momento in cui viene messo davanti alla scelta e viene, diciamo così, stordito con una serie di cifre, queste cifre poi dopo certo non hanno più un vero significato, perdono il loro valore reale, esattamente, sì. E qualche tempo fa, a proposito insomma di questi numeri che perdono il loro valore, noi abbiamo parlato un po' della crisi economica. Ci siamo soffermati velocemente anche sul caso Grecia, perché ovviamente oggi è uno dei temi più interessanti. Secondo te, ecco, forse hai già capito la domanda, ma un utilizzo diverso delle statistiche da quelle parti avrebbe evitato quello che è successo poi recentemente? Partiamo col dire che da quelle parti, senza specificare quale, da quelle parti, senza specificare quale parti, hanno fatto un uso. Uso un aggettivo che andava di moda un po' di tempo fa anche in Italia, legato a certi, ad argomenti di finanza pubblica. Hanno fatto un uso della statistica, diciamo così, piuttosto creativo. Mi piace la definizione, creatività applicata alla statistica. Tra l'altro potremmo lanciare un nuovo corso di studi. La statistica creativa. Certo, potrebbe essere un'idea. Ma io avrei anche in mente dei docenti per questo argomento, però non faccio dei nomi. Quello solo se riusciamo a fare il corso, poi penseremo anche ai docenti. Dicevo, comunque, tornando alla situazione economica, c'è stato, diciamo così, da quelle parti un uso piuttosto creativo delle statistiche. In particolare di finanza pubblica, ma non solo di quelle, in generale di tutta una serie di indicatori economici, che poi dopo ha portato a non si sa quanto per incuria, imperizia o perché ci si è svoltati un pochino dall'altra parte, a una sottovalutazione di quella che era la situazione reale. Sicuramente un uso, diciamo così, meno creativo, cioè che delle statistiche, cioè una produzione statistica che rispecchiasse un pochino di più quello che appunto in statistica si chiama il valore vero della variabile sottostante, probabilmente avrebbe portato a diagnosticare in maniera un pochino più precoce l'arrivo di una crisi, e quindi avrebbe dovuto portare a un intervento in qualche modo. Però, ripeto, la parte statistica è solamente un pezzo. Certo, poi dopo quanto pur queste statistiche creative siano state sottovalutate, non prese in considerazione, oppure appunto ci si è voltati da qualche parte sperando che passasse la nottata, questo è un altro tipo di discorso. Toglimi ancora un'altra curiosità. Che esula dalla statistica, ovviamente. Chiaro. Toglimi ancora un'altra curiosità. Come vedi, stasera avevo tante curiosità a cui tu piano piano stai veramente cercando di rispondere. Ah, sento il telefono in regia, quindi probabilmente uno dei nostri ascoltatori ha accolto l'invito a telefonarci. Prima gli faccio la domanda su Silvestri, se tu sei d'accordo, e poi sulla domanda sulla varianza, così che da verificare se ci sono, anche perché dopo ho ancora un'altra curiosità che fa riferimento ad un articolo che ho letto recentemente che definiva la statistica in un certo modo. Buonasera. Buonasera. Pronto, benvenuto a Brussellando, Radio Alma. Grazie. Allora, come avrai potuto ascoltare, questa sera offriamo dei biglietti di Daniele Silvestri, però come sai ovviamente ciascun premio va un po' meritato, quindi avevo una domanda che probabilmente conoscerai, perché sei desideroso di andare ad uno dei concerti di Daniele Silvestri. Cos'è la varianza? Allora, aspetta, se sai che cos'è la varianza, allora ci sarà un altro premio di cui ti farò sapere poi, perché devo riflettere. Però aspetta, andiamo con ordine, dimmi solo se sai qual è l'ultimo album di Daniele Silvestri, il titolo. Scotch del 2011. Bravissimo, Scotch del 2011, bravo. E come ti chiami, scusa, scusami, sono talmente stasera piena di numeri qui che mi sono dimenticata di chiederti, come ti chiami? Lapo Bettarini. Lapo Bettarini, sei toscano? Lavora a Firenze, sì. Ah sì, infatti, dal nome, sì, è un nome abbastanza diffuso da quelle parti. Lapo, allora, tu sai che cos'è la varianza? È quel numero... Puoi anche dire solamente sì, eh? No, no, aspetta, no! Cioè, allora, sai che cos'è la varianza, sì o no? Facciamo risposta... Ma penso di sì. Ecco, vedi, Lapo ci ti fornirà anche una risposta sulla varianza. Ti ascoltiamo. Ma dovrebbe essere quel numero che ci dice di quanto ci si discosta dalla media? O no? Diciamo che in una definizione vaga è accettabile, come è una misura della dispersione. Allora, è una misura della dispersione. Lapo, cioè due piccioni con una fava. Diciamo che, diciamo che la varianza è una misura della dispersione di una distribuzione. Siamo lì, dai, dispersione di una distribuzione è il discostamento dalla media, ci può stare, no? Lapo, complimenti. Dani M, come facciamo per metterci d'accordo sui dettagli? Dimmi tu. E Lapo ci ricontatta non in diretta e mi lascia i dati. Bene, Lapo, ti pregherei di chiamarci tra qualche minuto in modo tale da lasciare le tue coordinate a Dani M, il quale ti indicherà come ottenere due biglietti. Ok, volevo salutarvi e complimenti per il programma. Ah, Lapo, ti ringraziamo, buona serata, a presto. Ciao. Beh, allora, il primo ascoltatore è stato formidabile, non solo sapeva il titolo dell'ultimo album, ma aveva tutto sommato una definizione abbastanza precisa della varianza. Complimenti agli ascoltatori di Bruxellando, bisognerà la prossima volta fare una domanda ancora più difficile. Sì, chiediamo che cos'è la covarianza. Io andrei più, complicherei di più le cose, però va bene. Allora, ci devo un po' pensare, però insomma non è che... In teoria noi avremo probabilmente un'altra telefonata, io non lo so, perché sai, a volte ci chiamano subito, altre volte insomma bisogna attendere. Ricordiamo quindi che ci sono ancora due biglietti disponibili per il concerto di Daniele Silvestri il prossimo 27 maggio e vi ricordo che il numero al quale telefonarci è lo 02 345 2656. Allora, avevo letto tempo fa un altro articolo proprio sulle statistiche, c'era qualcuno che definiva il lavoro di statistico come il più sexy di tutti. Sì, non era un qualcuno. ti lascio svelare i dettagli. Dunque, chi ha dato questa definizione della statistica è Olvarian, che è il chief economist di Google e anche l'autore di uno dei testi base di microeconomia, su cui insomma penso che molti che hanno studiato economia si sono formati. Dell'anno dopo di me sì, io ho studiato su un altro testo, mi dispiace. No, ho detto molti, non tutti insomma. Appartengo a un'altra categoria. D'altronde uno che si chiama Varian, gli piace le varianze statistiche, quella roba lì, normale. Un destino, cioè voglio dire. Comunque al di là della frase molto, cioè dell'aforisma ancora molto divertente appunto sul fatto che il lavoro di statistico è quello è il più sexy del prossimo decennio, abbia detto. Poi dopo lo motiva anche in maniera abbastanza credibile, perché quello che lui dice, al di là del fatto appunto che è un lavoro sexy, è che con l'informatizzazione e con nel mondo digitale abbiamo adesso a disposizione una quantità di dati impensabile solamente qualche 10-20 anni fa, e quello che manca quindi non è tanto la capacità di produrre questi dati, perché sono lì, certo. Non lo so, usiamo la carta di credito, cioè su di noi c'è tutta una serie di dati su abbastanza dettagliati su che cosa abbiamo comprato, come abbiamo fatto le nostre spese. Andiamo al supermercato, abbiamo la nostra cartina di fedeltà del nostro supermercato preferito, sanno esattamente cosa abbiamo comprato, qual è il nostro profilo, quello glielo diciamo quando facciamo la cartina, perché ci diciamo dove abitiamo, però lì si potrebbe un po' anche mentire tutto sommato negli acquisti, soprattutto quello che sanno che è fondamentale, e in maniera dettagliata quello che compriamo, Cioè non solo sanno quanti litri di latte compriamo, ma insieme col numero di litri di latte che compriamo sanno anche con che biscotti o con che cereali li mangiamo questi latte. Quindi altro che Grande Fratello, voglio dire. Sì, ma questo significa ad esempio che noi il latte lo consumiamo, non lo so, con i biscotti, e decidono di aumentare il prezzo del latte, sanno anche come reagire, quanti biscotti meno noi compriamo. Certo. Quando è tutta una serie di informazioni di questo tipo che noi gli forniamo gratuitamente quando andiamo, o gratuitamente in cambio di qualche punto al supermercato al momento in cui andiamo a fare la spesa. Ma questa mole di dati qua, appunto, prima dell'informatizzazione non era disponibile. Assolutamente, infatti, nel senso che c'erano i commercianti, diciamo così, abili, che riuscivano a capire la relazione che c'era tra un prodotto e un altro, però era più qualcosa legato alla loro intuizione, alla loro capacità di commercianti. E oggi questa cosa qui, se uno ha delle capacità tecniche sufficienti, riesce a quantificarle in maniera molto precisa. Quello appunto, quello che diceva Arian, è i dati ci sono, quello che manca ed è una risorsa scarsa in questo momento è la capacità di interpretare i dati. Tra l'altro proprio su Repubblica credo ci sia stato un articolo qualche tempo fa che incoraggiava gli studenti italiani a iscriversi presso facoltà di economia e magari con indirizzo statistico. Perché si diceva che effettivamente nel giro di qualche tempo avrebbero tutti trovato lavoro. Se tu dovessi quindi magari consigliare a uno dei nostri giovani ascoltatori, quale sarebbe il consiglio nell'intraprendere questa professione? Quello di prima di tutto lo consiglieresti a chi ama la matematica, a chi si sente dotato, capace, insomma, di giocare con i numeri, perché insomma richiede anche una certa predisposizione alla... Onestamente è una scommessa che mi sentirei di consigliare, ovviamente come qualsiasi tipo di carriera, diciamo così, a livello universitario, e si tratta sempre di fare una scommessa, non si sa mai poi dopo, però credo che quella nella statistica sia una scommessa tutto sommato poco rischiosa alla fine, fondamentalmente perché condivido pensiero di Varian a proposito, nel senso che ci sono sempre di più dati disponibili in più o meno tutti i campi, nel senso che qualsiasi tipo di grande impresa ha a disposizione database con dentro una miniera di informazioni che aspettano lì solamente di essere scoperte, ordinate e strutturate. Ma anche appunto spesso chi riesce a strutturarle in maniera sensata. Assolutamente. Qualche tempo fa, tra l'altro, la Commissione europea ha pubblicato un rapporto molto interessante sull'empowerment, su questa strana parola, insomma, che vorrebbe i consumatori effettivamente capaci di scegliere, capaci di saper fare il conto e tutta un'altra serie di requisiti. Se tu quindi dovessi dare un consiglio invece ai nostri ascoltatori o comunque magari a tutti coloro i quali si recano abitualmente al supermercato, qualcosa da evitare e qualcosa assolutamente da fare per migliorare questo vincolo di bilancio un po' oscillante in tempo di crisi? Cioè, darlo dal punto di vista della statistica è difficile, non mi sento neanche di consigliare, prima facevo appunto mi riferivo al fatto che con queste carte di fedeltà noi praticamente stiamo regalando o vendendo per pochi punti una miniera d'oro di informazioni, non mi sento neanche di consigliare di non farla la carta, perché come la carta comunque sono piccoli vantaggi, ci sono piccoli vantaggi se comunque gli altri la fanno, quindi uno più uno meno in ogni caso la capacità di formulare delle politiche di prezzo legate all'analisi di questi dati, dato che comunque tutti la fanno, i supermercati comunque ce l'hanno. da questa capacità, a patto che abbiano degli statistici abbastanza preparati per farlo, ma questo qui è un altro discorso, è un problema che riguarda più i supermercati che non noi consumatori che andiamo tutti i giorni a fare la spesa. Quindi questi dati ce l'hanno, se riescono a interpretarli comunque possono mettere in pratica delle politiche di prezzo che vanno ovviamente in qualche modo al nostro svantaggio. Quantomeno, se la facciamo anche noi, questi piccoli vantaggi li portiamo anche noi a casa, quindi non me la sento di portare all'estremo e consigliare di non farlo. Bisogna però avere presente sempre questa in mente, che appunto stiamo svendendo qualche cosa, ecco. Beh, questo mi sembra essere interessante, sai, tra l'altro molto spesso ricevo proprio via email dei questionari che mi invitano a rispondere e mi rifiuto categoricamente di rispondere, proprio perché mi sembra che effettivamente possano captare, un po' come rubare, proprio informazioni abbastanza, non dico confidenziali, perché tanto le abitudini di acquisto tutto sommato credo siano abbastanza omogenee, magari c'è chi tende più ad acquistare bio, giusto per restare in tema, oppure acquistarne di meno, però insomma i beni di prima necessità credo siano uguali per tutti. Però insomma rispondere così gratuitamente, in maniera poi anche abbastanza sventata, a questi questionari non è mai stata una buona abitudine, quindi ti ringrazio di aver confermato anche questa. E quando parli poi dei questionari che vengono mandati via email o dei questionari che vengono presentati via web, apriamo un'altra sfera sulla attenzione dei risultati di questionari somministrati a chi risponde sostanzialmente in modo volontario, che vabbè, non so se vogliamo aprire questa parentesi sulla... Beh, potrebbe essere un argomento sulla teoria del campionamento. Potrebbe essere sicuramente un argomento molto interessante, però... Allora, sul campionamento, allora, toglimi un'altra curiosità e poi prometto che do la parola alla nostra Fiordaliso, Daniele, che scalpita in regia perché vuole dare un suggerimento. Anzi, sai che facciamo? Allora, ascoltiamo un suggerimento musicale di Daniele e poi torniamo in chiusura sul campionamento, perché credo ci siano cose che valga la pena raccontare. Ed eccoci nuovamente qui, questa sera abbiamo Luca che è il nostro ospite in studio, che sta cercando di chiarire un po' di dubbi legati all'uso delle statistiche, che tanto a volte ci affliggono, tante altre volte invece possono anche essere incoraggianti. Ci avevamo ripromessi di concludere questo momento sul campionamento, oppure io direi sugli exit poll. Luca, mi ricordo che qualche tempo fa, quando si parlava della Costituzione europea, sapete, bisognava approvarla, ratificarla, insomma, c'era un po' una discussione abbastanza animata un po' dappertutto in Europa, e in un paese, in un particolare momento, disse che la Costituzione in quel paese sarebbe stata ratificata con più dell'80%, se ricordo bene, con più dell'80% dei voti in favore. Invece tutto questo non si confermò, tant'è che la Francia, parliamo di questo paese abbastanza riottoso come al solito, altrimenti non avrebbero nel sangue la rivoluzione, già che sono bravi in questo i francesi, invece il popolo francese si espresse quello che tu stai citando è un eurobarometro fatto dalla Commissione Europea. L'eurobarometro non è uno studio statistico, è uno strumento di comunicazione, e quindi bisogna in qualche modo fare distinguo. Questo eurobarometro comunque è fatto un anno prima del referendum che sono stati fatti in Francia, Olanda e poi anche in Spagna e Lussemburgo. Questo viene dimenticato, perché in Spagna e Lussemburgo invece furono il referendum approvarono la Costituzione europea, ratificarono la Costituzione europea. Questi eurobarometri fatti comunque un anno prima rispetto ai referendum davano in questi paesi l'appoggio delle persone intervistate per una Costituzione europea che variava, adesso non mi ricordo, tra l'80 e l'85%, a secondo dei paesi. Esatto. Poi dopo, come sappiamo bene, in Francia e Olanda il referendum cassò la Costituzione europea. In Lussemburgo e Spagna invece l'approvò, ma non con l'80% dei voti favorevoli, né con l'85%, con un più modesto, 55-56, adesso non ricordo esattamente, qualche cosa sopra il 50, perché ovviamente passò, ma comunque sotto il 60, quindi non queste maggioranze così, diciamo così, corpose che lasciava intravedere questo studio. Qual è il problema sottostante? Qual è l'insegnamento? Qual è l'insegnamento sottostante? Il modo in cui viene selezionato, vengono selezionate le persone intervistate, influenza in maniera importante il risultato. Eravamo partiti da questa cosa dei sondaggi fatti via web o tramite email. In questo tipo di sondaggi sostanzialmente il campione si autoseleziona, nel senso che risponde chi effettivamente vuole rispondere. Risponde effettivamente chi vuole rispondere. Quindi chi trova una motivazione forte per esprimere un'opinione su qualche cosa. Nei questionari che io ricevo c'è la promessa che ci sarà un estratto che vincerà 7.000 euro. Oppure, oppure solo per dirvi quello che ricevo. Sì, oppure qualcuno che, insomma, oppure quelli, diciamo così, più fiduciosi nel fatto che loro possano vincere, ma comunque è sempre un'autoselezione. Assolutamente, certo. È un'autoselezione del campione. Questo può portare a una distorsione del risultato, perché appunto il campione, perché poi dopo l'indagine porti a dei risultati statisticamente significativi, il campione deve essere, come si dice tecnicamente, rappresentativo di quella che è la popolazione che si vuole indagare. E questo, come renderlo rappresentativo, non è una cosa. This is the question. Non è una cosa, non è una cosa semplice. To be representative or not? Perché bisogna, innanzitutto bisogna vedere cosa vuol dire rappresentativo, perché bisogna appunto, per essere rappresentativo il campione deve avere certe caratteristiche di quella che è. Quindi la assicurare, per esempio, il numero di uomini, il numero di donne in egual misura, dipende la rappresentatività di quel paese. No, ma dipende da cosa si vuole andare ad analizzare, nel senso che ovviamente per la maggior parte delle cose, sia di tipo, diciamo così, economico-sociale, ma anche in campo medico, il genere è importante, quindi certo ci vuole una rappresentatività rispetto alla suddivisione tra uomini e donne nell'indagine. L'età pure spesso è una variabile importante. Ce ne sono altre che diciamo così, a prima vista possono essere meno importanti, non lo so, il colore dei capelli, il colore degli occhi, l'altezza, eccetera, che probabilmente per la maggior parte delle indagini di tipo socio-economico sono effettivamente poco importanti, magari in campo medico su certe cose, per andare a indagare certe cose, sono invece fondamentali. Assolutamente. Ho sentito il telefono suonare per la seconda volta, quindi immagino che Dani M ci metta in contatto con un altro dei nostri ascoltatori per i biglietti. Beh, diciamo che Daniele Silvestri ha avuto molto successo, quindi insomma la cosa non può che farmi piacere. Pronto, benvenuto, benvenuta Radio Alma, Bruxellando. Pronto, ciao Maridì, sono Claudio. Ciao Claudio, benvenuto a Bruxellando. Allora, come avrai potuto ascoltare all'inizio di trasmissione oppure qualche momento fa, questa sera siamo lieti di offrire due biglietti per il concerto di Daniele Silvestri, che avrà luogo tra qualche giorno proprio a Bruxelles, il 27 maggio. Quindi abbiamo una domanda che spero non sia troppo ardua, infatti ci penso più. Comunque proviamoci. Allora, tu sei un fan di Daniele Silvestri? Sono, sì, un fan di Daniele. Tanto, tanto, tanto, tanto? Beh, abbastanza, sì. Cerco di seguirlo, insomma, ho il suo ultimo album. Bene, allora, il suo ultimo album, abbiamo scoperto, si intitola Scotch, quindi questa abbiamo già assodato. Tu sai per caso quando è nato lui? E lui è nato 18 agosto del 68. Ah, quindi lui è più giovane di Capostela, che avevamo intervistato qualche giorno fa. È un po' più giovane di Capostela. Claudio, la risposta corretta, insomma. Tu sei ferrato in statistica? Perché abbiamo una domanda di riserva. Una domanda di riserva, proviamoci. Sai che cos'è la covarianza? La covarianza, dunque, allora, la covarianza è quel fenomeno che si riscontra quando un elemento è fisso e l'altro elemento è variabile nella curva di Altafini, ed è un fenomeno veramente fondamentale nella ricerca osmotica del palindromo. Allora Claudio, noi siamo tutti stupefatti perché c'è il secondo ascoltatore a cui poniamo la domanda di statistica e tutto sommato prova a dare una risposta. Allora noi ti ringraziamo, Daniele, ti richiederei cortesemente di ritelefonare tra qualche minuto in maniera tale da poter fornire i dettagli a Daniele nel modo per recuperare i biglietti. Beh, grazie, siete carinissimi. Ti ringrazio della disponibilità e ti auguro un ottimo concerto. Grazie. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Beh, come vedi, ciascuno tutto sommato prova ad abbozzare una risposta. La risposta esatta sulla covarianza magari la ritroveremo. Diciamo che la risposta del primo ascoltatore mi aveva lasciato più soddisfatto rispetto alla seconda, però va bene tutto. Tutto sommato ci può stare. Insomma, abbiamo avuto il piacere, insomma, di intrattenerci con Luca, il quale ci ha spiegato un po' di segreti legati a questa scienza, posso chiamarla scienza, che è quella delle statistiche. Insomma, abbiamo un po' ripercorso una serie di perplessità. Luca, siamo in chiusura perché il tempo in radio, ahimè, è davvero tiranno. Vorresti indirizzare un saluto dai nostri microfoni? Salutiamo tutti gli ascoltatori. Sì. Non mi ha fatto molto piacere chiacchierare, interloquire con voi su questi temi così non inusuali ma un po' complessi, ecco, diciamo. Di sicuro non assolutamente, concordo con te, non usuali. Noi ti ringraziamo per la tua squisita disponibilità, speriamo che ci farai l'onore di essere nuovamente nostro ospite tra qualche tempo. Luca Vedremo. Sta lasciando Bruxelles, quindi rientra in Italia, e sono veramente felice di essere riuscita a catturarlo prima di partire per le nostre amate terre italiane. Io do la parola alla nostra Fiordaliso, però Dani M mi deve aiutare perché stasera tutto da sola, senza Giorgetto. Li brangolo statisticamente. Statisticamente li brangolo, dai, mi piace di più. Ecco, non c'è nessuno che sa il Kabbalah, così facciamo fare i conti sul brangolo. Beh, 1, 2, 3, li brangolo, 4, 5, 6. Vabbè. E la media? Creativo. La media, Allora, stasera vi ho portato un libro che è stato raccomandato da un amico, a cui devo ringraziare perché effettivamente mi è piaciuto, quindi grazie a Michele, e vi parlerò del libro Un giorno di David Nichols, che una delle ragioni per cui mi è piaciuto è perché ha tantissimi chiavi di lettura, se possiamo dirlo così. Da un lato è una storia d'amore che si sviluppa attraverso attrazione, amicizia e anche dei sbagli, diciamo, attraverso il tempo, attraverso un arco di 20 anni. Un'altra cosa carina, diciamo, è il modo in cui è presentata questa storia. È presentata descrivendo la situazione dei personaggi il giorno di 15 luglio di ogni anno che stanno passando. E questo è un modo molto interessante di presentarlo, ma è anche un modo di far realizzare al lettore quanto velocemente passa il tempo, perché noi a volte praticamente ci viene addirittura il panico, secondo me, a volte della velocità del passaggio del tempo. E questo modo di scrivere in un certo senso te lo fa proprio sentire, come sopra le dita, come scivolano i granelli di tempo in cui delle scelte sono fatte o non fatte, delle cose si aspettano e non si aspettano, diciamo. E forse il titolo Un giorno si riferisce da un lato a questo modo di presentare la storia, però secondo me c'è anche un'altra chiave di lettura del titolo, Quello sarebbe piuttosto un fatto comportamentale, psicologico nostro, che siamo sempre disposti a dire, ma un giorno lo farò, oggi no, domani, per pigrizia, per scomodità, per paura, per un sacco di cose. E quindi i personaggi nel libro un sacco di volte si dicono un giorno chiamerò, un giorno farò questo, un giorno, cioè si scrive una lettera poi non si manda, cioè ci sono dei momenti chiave in cui fondamentalmente il destino dei personaggi è proprio definito da questo atteggiamento di fare le cose un giorno, mentre come tutti sappiamo l'un giorno o c'è o non c'è effettivamente. E i due personaggi stessi sono anche molto interessanti, cioè la ragazza, cioè si comincia la storia dal momento del diploma universitario, due giovani molto in un certo senso entusiasti, molto diversi fra di loro, Emma che è una che fondamentalmente vorrebbe fare un po' di bene attorno a sé, invece Dexter che vorrebbe praticamente rimanere giovane tutta la sua vita, e in un certo senso i sogni dei due si realizzano, e per uno la realizzazione dei sogni è in un certo senso un lavoro anche faticoso, difficile, lavorato, dall'altro lato i sogni dell'altro, di Dexter, si realizzano, ma la loro realizzazione è fondamentalmente una punizione, e quindi anche, cioè magari anche se uno potrebbe dire che come che la storia detta in modo molto scarna, che due persone che si conoscono molto giovani sono attratti una all'altro, poi scivola invece in una, che è una storia, scivolano nell'amicizia, poi tanti tanti anni dopo si rincontrano, eccetera eccetera eccetera, uno direbbe vabbè, una storiella d'amore, dai, cioè che vuoi, però comunque c'è un bel talento di scrittura in questo libro, un bel modo di presentare le cose, anche una bella ironia e senso dell'umorismo, e anche la capacità di far pensare su questo un giorno che c'è o non c'è, o su questa vita di come lo teniamo e come non lo teniamo nelle nostre mani. Quindi vi raccomando calorosamente la lettura di questo libro, che ricordo è pubblicato da Hodder, il titolo è One Day. Fiordalisa l'ha letto in inglese, probabilmente ci sarà anche una versione in italiano. Sì, c'è l'edizione, ho verificato, c'è l'edizione in italiano, si trova su IBS e sicuramente anche nelle librerie italiane. Quindi insomma potrete poter apprezzare questo libro anche in inglese. Tra l'altro, ritornando al tema della serata, cioè le statistiche, avremmo potuto analizzare tutte le volte in cui qui nel libro viene ripetuto One Day, così almeno potevamo selezionare. Non così tanto, vedi? Non così tanto, cioè è un protagonista un po' nascosto questo One Day, secondo me appare tipo due volte più o meno, cioè è proprio palese per la sua assenza, è soltanto attraverso la storia che uno, e attraverso diciamo le pagine, che uno riesce ad interpretare quello che il titolo vuol dire, che è un titolo molto adatto a questa storia. Beh, 20 years, two people, one day mi sembra essere effettivamente insomma incoraggiante, quindi insomma io ho già preso nota e questo sarà il prossimo libro che leggerò perché mi ha incuriosito notevolmente, anche perché reca comunque delle citazioni abbastanza interessanti dai più importanti giornali inglesi, quindi insomma mi chiedo se ci sono delle statistiche, sicuramente ci sono, su quanto queste raccomandazioni di personaggi conosciuti e sconosciuti influiscono sull'acquisto del libro. Ma David Nichols, a quanto pare, prima di diventare scrittore era un attore insomma by training, quindi insomma credo avesse un po' di contatti da qualche parte, però insomma questo non è necessariamente rilevante. Si sente nel libro, perché ci sono alcuni episodi che sono ambientati nel mondo teatrale, quello un po' la parte più difficile diciamo del mondo teatrale, dove uno non è inondato dal successo, piuttosto sta un po' lottando per la sopravvivenza e contro i pomodori che vengono lanciati, però c'è Beh, se sono buoni pomodori, magari insomma c'è anche un po' di... In Inghilterra, dai! Sicuramente! Ormai tanto i pomodori vengono tutti dalla Cina, quindi insomma nemmeno lì c'è più da stupirsi, e lì le statistiche sono sicure, quello col commercio estero non mentono, di questo sono certa, anzi domani vado a controllare, così magari non dico nemmeno io pignate. Penso che in Europa i pomodori vengano dalla Spagna e dall'Olanda. Non ne sono molto sicura, sai? Non lo so. Questo insomma lo scopriremo, ve lo dirò martedì prossimo, così insomma potremo dare un'evidenza a quello che stiamo dicendo. Se vuoi rendere le cose più complicate, introduciamo il concetto di asimmetria, perché sicuramente il numero di pomodori che la Cina dichiara come esportati in Europa non corrisponde con la quantità di pomodori dichiarati come importati dalla Cina in Europa. Ecco, il concetto mi sembra abbastanza interessante, anzi inviterei tutti gli amici ascoltatori che hanno già una risposta, magari inviandocela a brussellando@gmail.com, e se ricevo una risposta a questa domanda, va sicuro che ci sarà un premio. Ovviamente manuale di statistica di Varian offerto da consolatemi, perché ho un paio di libri doppi a casa, quindi possiamo accontentare anche con qualcosa di... Beh, era più interessante magari il manuale di statistica di Varian, no? Pensavo una consulenza di passata di pomodoro cinese. quella non potrei mai offrirla, perché non so, lungi da me, però con un pizzico di chemicalie su cui non esistono le statistiche, con un pizzico di cardamomo. Così saluto anche due amici che mi hanno fatto conoscere il cardamomo, e giustamente, come mi dicevano, in Italia è difficile trovarlo. Noi siamo alla fine di questa interessante trasmissione di Brussellando. Io ringrazio Luca, che è stato con noi tutta la sera, e gli auguro un ottimo rientro in Italia, sperando che non si dimentichi di noi. Ma come potrei? E salutiamo il nostro George, che non era qui con noi questa sera, ma che sarà con noi martedì prossimo. George, buon lavoro, in bocca al lupo a Strasburgo, e mi raccomando, insomma, martedì prossimo abbiamo un ospite straordinario, conto su di te, perché so che di lui tu hai letto tanto, quindi insomma avrai già tante domande, tante perplessità. Saluto Dani M in regia. Buona serata a tutti. E ovviamente la nostra Fiordaliso, che ogni martedì riesce veramente a suggerirci chicche di lettura straordinaria. Vedi, io ho già preso nota, quindi leggerò è già scritto, e lo leggerò in inglese, perché ho visto che ho un ottimo inglese, quindi insomma non richiederà molta difficoltà. Dani M ultimamente ormai insomma è più tirano del tempo che trascorre in radio, quindi siamo alla fine. Maridi vi saluta, vi auguro un'ottima settimana, apparentemente a Bruxelles ci sarà il sole, quindi godetevi questi momenti, e noi ci ritroveremo martedì prossimo alle ore 20. Buona settimana a tutti. E noi salutiamo Maridi. Ti ringrazio, ciao.